volume 3. Ay, ay, ay. In cazzo me lo scortifico, sei scarso te lo notifico. Salgo sul palco e pontifico, fumo aspettando il bonifico. Se mi vorrebbero morto e sepolto, io mica li biasimo. Guardo so povero popolo sotto da sopra il patibolo. Da qua è tutto magnifico, non mi ferisco in un minimo. Tengo 30 anni, ne dimostro 20 perché sono morto da piccolo. Ecco perché sono meglio degli altri, perché non mi fotte che dicono. Ecco perché io non sto sopra un attilo, loro sopra qualche trapiccolo. Non vanno ma cose li spingono. Lo contro lo spigolo, lo velenoso maligno lucigno, lo giro con due piedi lucifero. Parlo più o meno due lingue, proprio qualche dialetto indigeno. Sono il terrone più grosso di tutti, ma proprio di tutti, fra Cannavacciuolo e lo Cicero. Santo padre sopra l'astronave, quattro frate come fra conclave. Scrivo un manifesto, non ricordo il testo, ma magari muori adesso un passo chiave. Ho sofferto, mi sono evoluto, sono Kevin Wild del clan, un pazzo cane. Mi potete solamente spazzolare, vi rapisco e gioco a Dio in un casolare. Tanto siete solo casi umani, vi ucciderò in maniera casuale. Ti sfondo il culo con amore, baby, vedi questo è un mio delitto passionale. Siete pussi e gattonate, non sono rime, sono mattonate. Hai provato con il rap, io mi sono fatto una carriera, tu ti sei fatto male. Faccio un nuovo disco ed ogni volta questo che sparisce. A me sai che me ne importa, sono Jordan che ritorna con 45. Il basso pompa più della tua troia, questa roba senti bene come spinge. Ho visto il tuo nuovo video, beh mi spiace ma per me è soltanto cringe. Ho sentito pure il disco, frate che vuoi che ti dica. Sarò io che non capisco, forse perché a me piace la figa. Sai nessuno mi ha mai dato una mano, ma mi dicevano soltanto che non sarei mai andato lontano. Qualche disco d'oro dopo posso constatare che in fondo potete solo continuare a succhiarmelo piano. Crescito senza Dio, nessuna luce sulla via. L'unica cosa in cui credo è che provare a fottermi sia una follia. A me non puoi pensare di fermare il diavolo con un professore di teologia. È come mettere la mia depressione cronica con la tua chierofobia. In cazzo me lo scortifico, in cazzo me lo scortifico, in cazzo me lo scortifico. Fumo aspettando il bonifico.